voglio svegliarmi. Ringhia sempre. Toglimi di dosso quella mano da poliziotto. Non sono un poliziotto. Peggio ancora, sei un assassino assoldato dai poliziotti. Non ho mai ucciso un essere umano in tutta la mia vita, per favore. Soltanto quei poveri androidi. Beh, mi pare che non ti dispiaccia spendere per i tuoi capricci tutti i premi in denaro che porto a casa. Sono molto irritato. Mi avvicino al mio organo degli umori. E intanto non ci possiamo permettere neanche una pecora vera per sostituire quella elettrica. Non ho l'umore giusto per sapere di che umore vorrei essere. Ecco Iran che si alza dal letto. Ecco che controlla il suo organo degli umori. Oggi mi concedo 6 ore di disperazione autoaccusatoria. Dio mio, Iran, ma perché? Così non sento il silenzio. Ah già, il silenzio. Gli altri appartamenti vuoti. Beh, anche io li sento, specie di notte. Eppure l'intero palazzo è per metà occupato, una vera rarità, dati i tempi. In periferia si possono trovare edifici completamente vuoti. Ecco Iran che mormora ancora come tra sé. È pericoloso sentire l'assenza di vita. Preferisco la disperazione. L'ho programmata sulla mia scheda 2 volte al mese. Mi sembra una frequenza ragionevole. Non ti fa bene, Iran. Non ti fa bene. Non ti preoccupare. Dura solo per 3 ore. Poi inserisco la 481. Consapevolezza delle molteplici possibilità che si spalancano nel mio futuro. Sì, senti, io faccio un salto sul tetto a controllare la pecora e poi vado in ufficio. Prima di uscire accendo la televisione. Buster Friendly è già lì e saluta allegramente. Ciao ciao gente! Dalla camera da letto mi giunge la voce di Iran. Non sopporto la TV la mattina. E beh, allora programmati un 888, il desiderio di guardare la televisione qualunque cosa trasmetta. Rientro in camera a guardarla. Lei è immobile come congelata. La copre quello strato sottile, onnipresente, di inerzia assoluta. Torna a letto, dai. Riposati. Facciamo così, ti seleziono il 594, riconoscimento compiaciuto della superiore saggezza del marito in tutti i campi. Salgo sul tetto, dove bruca la mia pecora. È soltanto un pezzo di ferro, ma pascola con ben simulata soddisfazione. E può anche ingannare gli altri inquilini, del resto è un'infrazione alle buone maniere chiedere se un animale è vero oppure no. L'aria del mattino, rigurgitante di polveri radioattive turbine intorno a me. Malgrado la mia tuta di piombo, la polvere filtra. Lo slogan ricorrente in TV è: emigrate o degenerate, la scelta sta a voi. Ma io non posso emigrare per via del mio lavoro. E ci sono già parecchi speciali, teste di gallina, come li chiamano, contaminati. Dal tetto di fronte mi arriva il saluto di Bill Barbour, raggiante. Ehi, hey Rick, la mia cavalla è gravida! La mia pecora smette di ruminare la vena guardandomi fissamente. Bene, bene, bene, bene Bill, bene. Senti Bill, hai mai pensato di venderla, voglio dire, la tua cavalla? Desidero follemente un cavallo. Oddio, io desidero qualsiasi animale, purché è vero. Possederne uno falso è demoralizzante. Ma quelli veri sono rarissimi e molto, molto costosi. Tiro fuori dalle tasche della giacca la mia copia del catalogo Sydney di animali e volatili, con tutte le razze e i prezzi. Quando non lavoro, non faccio che consultarlo. Ma stai scherzando? Non te la puoi permettere. E poi hai la tua pecora, no? Ogni famiglia ha un animale. Graverson ha quella gallina, Ox quel grosso cane che abbaia tutta la notte, e Ed Smith dice di avere un gatto, ma nessuno l'ha mai visto. Mi chino sulla mia pecora, frugando nel fitto pelo bianco, finché non trovo i comandi del meccanismo e li mostro a Barbour, che lo fissa sbalordito. Lo vedi? Lo vedi, Bill, adesso lo capisci perché desidero tanto il tuo puledro. Ma poveretto, mi dispiace. L'ho dovuta far riparare tante di quelle volte. Il furgone dell'ospedale degli animali sta sempre qui. Guarda, io a volte preferirei sbarazzarmene e amen. Ma non puoi! Sai com'è la gente e come giudichi immorale e antiempatico non prendersi cura di un animale. È la nostra religione, Rick. Il mercerismo. Il mercerismo. Sfoglio il catalogo. Vorrei un animale grande, un cavallo, oppure una vacca, un bue. Sì, sì. Il premio per 5 androidi basterebbe. In silenzio spalanco la portiera della mia macchina volante e decollo. Nessuno si ricordava perché era scoppiata la guerra e chi avesse vinto. La polvere aveva contaminato tutto il pianeta e per primi erano morti i gufi. Era persino buffo vedere questi uccelli bianchi, grassi, soffici, sparsi così per le strade. Emigrate. Il programma di colonizzazione si era accelerato. Oh. Con l'aiuto dei robot umanoidi. Degenerate. Chi rimaneva sulla Terra lo faceva per paura, per nostalgia o perché ormai irrimediabilmente contaminato, nel cervello soprattutto. E sembrava regredire. John Isidore lo sapeva che lui era una testa di gallina, come li chiamavano, ma in fondo aveva un buon lavoro. Si occupava di animali, come aveva sempre desiderato. Li amava sin da piccolo, soprattutto l'asino, il rospo, gli animali preferiti di Mercy e il ragno, il piccolo animale sacro. I suoi animali erano finti, certo. Ma poteva lo stesso aiutarli quando si guastavano, ritirarli, portarli ad aggiustare, girando con il suo furgoncino dove c'era scritto «Ospedale per animali Van Ness». E poteva incontrare altri umani, contenti di vederlo, anche se era una testa di gallina. La paura lo prendeva tornando a casa. Il silenzio lo aggrediva come una forza terribile e totale. Si diffondeva dai muri e dal legno. Si alzava dal pavimento, attraversando il consunto tappeto che andava da una parete all'altra. Usciva dagli apparecchi rotti, dalla cucina, dalle macchine senza vita che non avevano mai funzionato, trasudava dall'inutile lampada a stelo del soggiorno e si mescolava al muto colare di altro silenzio, dal soffitto macchiato dalle mosche. Il silenzio era visibile, sì, visibile. E a suo modo vivo. Vivo. Lui era l'unico abitante di questo cieco, fatiscente, isolato di migliaia di appartamenti deserti e in rovina. Si sentì soffocare. Ed eccolo. Ecco che va alla macchina dell'empatia e afferra la manopola. Ed ecco che scivola dentro nel solito modo straordinario. La fusione fisica con Mercer, l'identificazione mentale e spirituale, come stava accadendo per i sopravvissuti della Terra che avessero afferrato in quel momento le manopole. Lui li percepì gli altri, assimilò il brusio dei loro pensieri e sentì nel cervello le loro presenze. Erano tutti lì ora, tesi verso la cima della montagna. La televisione urlò d'improvviso: «Emigrate o degenerate, la scelta sta a voi!» E quando spegne la TV c'è un altro suono in lontananza. Il suono di un'altra televisione. C'è qualcun altro in questo edificio, non è più solo. Bene, bene, dai. Vai, Isidore, vediamo che cosa si fa quando arriva un nuovo inquilino. Mm-hmm. Sì, bravo, sì. Ci si deve presentare, portare qualcosa. Sì, vai in frigo, vai. Una vecchia tavoletta di margarina. Ma sì, prendila, prendila. E lui la prende, mentre il cuore gli batte forte per l'eccitazione e la gioia. Andando in ufficio mi fermo a guardare così furtivamente la vetrina di un grande negozio di animali. Guarda, c'è uno struzzo. e sul cartellino c'è scritto: l'unico struzzo di tutta la costa occidentale, un prezzo impossibile. In ufficio mi accoglie il mio superiore, l'ispettore di polizia Harry Bryant. Ci sono quei nuovi androidi, Rick, nuovi e intelligentissimi. L'unità Nexus 6 li produce la Rosen Association. Sono fuggiti da Marte e devono essere rintracciati. Penso che gli androidi siano stati spediti su Marte per servire gli umani, ma continuano a fuggire e a venire qua sulla Terra. Si possono individuare solo con la Void Kampf, la scala dell'empatia, ma funzionerà? Funzionerà anche con i Nexus 6? Per quanto intelligentissimo, un androide non può essere empatico, e il test lo scopre. L'empatia può esistere soltanto all'interno della comunità umana, grazie al mercerismo. Noi ci distinguiamo come esseri umani grazie al mercerismo. L'androide è come un ragno, un predatore solitario. L'empatia ne minerebbe la capacità di sopravvivenza, lo renderebbe cosciente del disperato desiderio di vivere della sua vittima. Ma così tutti i predatori morirebbero di fame. La facoltà dell'empatia confonde i confini tra cacciatore e vittima, tra il vincitore e lo sconfitto. Di quanti androidi si tratta? Ne sono rimasti 6. Vola a Seattle e parla con quelli della Rosen perché ti facciano esaminare i Nexus 6 e verificare se la scala Voigt funziona. Poi dovrai cercare i 6 robot e terminarli. Grandi occhi neri nel viso piccolo. Sono Rachel Rosen. Sto per dire il mio nome, ma mi interrompo sbalordito. Improvvisamente sul tetto io ho visto i loro animali. Percepisco già il loro odore, i profumi mescolati di tutti gli animali accovacciati e in piedi, fisso impietrito un procione lavatore addormentato. Mai in vita mia io ho visto un procione. Tiro fuori il mio catalogo Sydney, che dichiara estinti i procioni e ne indica il prezzo. Se ne esiste uno, una cifra astronomica. Il suo nome è Bill. Bill il procione. Mi guardo intorno e vedo guardie armate di mitragliatrici davanti agli animali che non mi hanno staccato gli occhi di dosso. Una grande fabbrica di androidi che investe i suoi guadagni in animali vivi. Sento un disperato bisogno di un animale vero e un'esplosione d'odio per la mia pecora elettrica. Vogliamo andare, signor Deckard? Lo zio Eldon dovrebbe aver preparato un gruppo di androidi. Eldon Rosen, vecchio, alto, ossuto, con i capelli tutti bianchi, mi aspetta in un piccolo soggiorno molto elegante, dove sistemo su un tavolino la mia Void Kampf. I due Rosen mi guardano in silenzio, freddamente. Ce l'hanno con me, ce l'hanno. Perché potrei costringerli a ritirare dal mercato tutti i nuovi androidi. Sono pronto. Può far entrare il primo. Cosa misura questo strumento? Misura la dilatazione capillare, la tensione dei muscoli oculari. Sono risposte autonome primarie, non possono essere controllate volontariamente. Mi faccia il test. Guardo. Sì. Sì. Attivo la macchina. Scelgo la domanda numero 3. E comincio. Per il suo compleanno le regalano un portafoglio di cuoio. Non lo accetterei. E inoltre, denuncerei la persona che me lo ha dato. Suo figlio le mostra la sua collezione di farfalle e gli spilli per trafiggerle. Lo porto subito dal dottore. La sua voce è decisa ma senza emozione. Sta guardando la TV e all'improvviso si accorge che una vespa le sta camminando sul polso. L'ammazzerei subito. rimane incinta di un uomo che ha promesso di sposarla, ma costui se ne va via con un'altra donna, la sua migliore amica. Lei abortisce. Non abortirei mai. E comunque è un reato. Lo dice con qualche secondo di ritardo. Sfogliando un giornale, suo marito trova la foto di una donna nuda. È un esame per capire se sono un androide, signor Deckard, o una lesbica. Non risponda con altre domande. La foto piace così tanto a suo marito che decide di appenderla in camera. Non glielo permetterei. E in più, dovrei bastargli io. L'ultima domanda in due parti. Siamo nel pieno di un banchetto. Gli ospiti degustano delle ostriche crude. Che schifo. Risposta corretta ma simulata. Il piatto principale consiste in un cane bollito ripieno di riso. È un androide. Sono stupito. E lei lo sa? No. È stato il nostro primo esperimento. Potrebbe dire al suo ufficio che la macchina non funziona, che non c'è alcun modo di distinguere un umano da un androide. Che ne dice? Può prendere dal tetto l'animale che desidera. Non servirà. Anche il procione. Non servirà. Si accorgerà subito che anche i nostri animali sono finti. Bene. Bene, ora ho visto una Nexus 6. Rachel deve essere una Nexus 6. Mi restano 5 androidi. Mi guadagnerò il premio. Fino all'ultimo centesimo. Isidor è dietro la porta del suo nuovo inquilino e sente alla TV la voce familiare di Buster Friendly che parla allegramente al pubblico. Ciao ciao gente! Una nota sul tempo, Il satellite Mangusta riferisce che la pioggia radioattiva sarà particolarmente accentuata verso mezzogiorno, così, carissimi, se dovete uscire aspettate ancora un poco, E ricordate che fra 10 ore e 10 vi darò una grande notizia, un'informazione straordinaria, ma ora, carissimi, è il momento di passare. Quando Isidor bussa, la televisione si interrompe e c'è solo silenzio. Lui percepisce una presenza, oltre quella paura. E percepisce la paura muta che prima di tutto. Ehi! Ehi! Io abito più in là e vorrei conoscerti, ma... Va bene. Mi chiamo Isidor. E lavoro per l'ospedale per animali, Van Ness. Aspetta con le orecchie tese, niente, né suoni, né rumori. Sono una persona rispettabile, io. Ho un mestiere, io. Ho anche portato un pezzo di margarina. Alla porta si socchiude lentamente. Intravede una ragazza, magra, bruna, grandi occhi neri. Il suo corpo è rigido. La paura la fa sembrare malata. Lei è l'unico? L'unico in tutto l'edificio tranne... me? Dietro di lei c'è una stanza in disordine, valigie aperte sul pavimento sudicio. Ci sono soltanto io. Ho sentito Buster Friendly alla sua TV, forte, vero? Anch'io lo ascolto tutti i giorni. Chi? Buster. Ma lei da dove viene, scusi? Che importa? Vuole che l'aiuti a disfare le valigie, se vuole magari a cercare i mobili in giro per gli appartamenti. E lo farò da sola. Grazie. Da sola? Vuole andare in giro in tutti quegli appartamenti da sola? Perché no? Io ci ho provato una volta, ma una volta sola però. Sa, negli appartamenti dove non vive più nessuno c'è la roba che aveva la gente, vestiti, fotografie, tante cose, e tutto diventa Kipple. Kipple? Ecco, Kipple è quando restano gli oggetti inutili, non so... Una bustina di fiammiferi, tutta usata, una fascetta gommata, il giornale del giorno prima. Quando non c'è nessuno in giro, il Kipple si riproduce. Se lasci in giro del Kipple, il giorno dopo ce n'è il doppio e poi continua a crescere. Capisco. È un principio generale, opera in tutto l'universo. L'universo intero si sta muovendo verso uno stadio finale di totale kipplizzazione. Certo, a parte Mercer e il mercerismo. Mercer? Ah sì, mercerismo. Lei non ha una scatola dell'empatia. Ma non è possibile. È necessaria una scatola dell'empatia. È l'oggetto più personale che ci sia. È come un'estensione del proprio corpo. È l'unico contatto possibile con altri umani. È il solo modo di non essere più soli. Lei non partecipa alla fusione. Ora ho da fare, Isidore. Potremmo vederci più tardi. Il mio nome è Pris Stratton. Pris? Anzi no, signorina Stratton. Lei non c'è più paura adesso, ma una cosa strana, una specie di freddezza, un vuoto, come un respiro che viene dal nulla. Sicuramente Isidore sta pensando... Pazienza, così va il mondo. Chissà, forse cambierà idea. Cambierà idea e mi permetterà anche di chiamarla Pris. Un bel nome, Pris. Certo, è un po' strano. Per esempio, non ha mai sentito parlare di Buster Friendly, ma Buster sta in TV tutti i giorni, c'è solo lui. E non conosce neanche Mercer, poverina. Non sa che cos'è la condivisione e l'empatia tra gli umani. Forse lei ha un'altra divinità. Mercer non è un essere vivente, è l'archetipo di un'entità che proviene dalle stelle. Beh, perlomeno questo è quello che ho sentito dire dalla gente. È così sola. Forse ha bisogno di aiuto. Avrà capito che sono una testa di gallina. Isidore prende il furgone della ditta e preleva il primo animale difettoso della giornata. È un gatto che si lamenta. È buffo, pensa Isidore, che anche i gatti finti si lamentino. Toma, si rivolge al gatto. Non puoi smetterla finché non arriviamo al negozio. E il gatto continua con i lamenti. E va bene, dai, che ti ricarico io. Dai, che poi starei meglio. Si ferma, prende il gatto in braccio, frugandogli il pelo, ma non riesce a trovare il cavo. Pazienza, tanto ha smesso di funzionare. Meglio portarlo al negozio. Va bene, gente. Se mi arrampicherò su una montagna, vorrà dire che porterò con me un paio di bottiglie Budweiser. Anche da lì proviene il suono della televisione e la voce di Buster. Il suo show arriva anche agli immigranti sugli altri pianeti. Ora sta di nuovo parlando male di Mercer e ridicolizzandolo. Ma perché? Tutti amano e approvano Mercer. Persino i governi, le Nazioni Unite, dicono che l'umanità ha bisogno di empatia e che il mercerismo ci rende tutti più sensibili. Sì, certo, la polvere radioattiva sembrava colpire anche Mercer, su quella collina. Lo aveva reso tutto grigio, come rattrappito, con il passo mal sicuro. Cosa hai lì? Questo è il principale di Isidore, il signor Sloat. È un gatto in cortocircuito. Questo gatto non è falso! Lo sapevo che prima o poi sarebbe successo, lo sapevo! E ora è morto! Sei proprio una testa di gallina, Isidore! Ora chi la sente, la signora Pilsen? Io ma sembrava falso, io... Dio! Ora le telefoni tu, io non glielo dico! Sì, signora Pilsen, salve, sì, no, la chiamo per il gatto. Ecco. Forza! Potremmo trovare un altro gatto. Una copia elettrica, ma proprio uguale. Dai qua! Potremmo darle una copia perfetta, signora Pilsen. No, non c'è bisogno di dirlo a suo marito, non se ne accorgerà. Sì, ne sono sicuro. Sì, grazie. Arrivederci. Isidore, ora sbrigati. Fallo misurare e fotografare. Voglio una copia uguale. Va bene. Mi sa che è meglio chiamarli subito prima che cominci a decomporsi. Ma è vero che i cadaveri si decompongono? Deckard, sei tornato presto. Sei sicuro che la scala Voigtkamp funzioni? Sì, funziona. A chi tocca adesso? Si chiama Luba Luft. È una cantante d'opera. C'è ancora una cosa, Rick. Sta venendo qui un poliziotto sovietico del VPO. Sovietico? E cosa vuole? Il VPO si interessa al tipo Nexus 6 e vogliono che ci sia un loro uomo con te. Si chiama Sandor Kadali. E per il premio? Tranquillo, non dovrai dividerlo. Intanto studiati l'incartamento della Luft. Cantante d'opera, leggo. Proveniente dalla Germania e attualmente scritturata dalla San Francisco Opera Company. Beh, deve essere brava se è riuscita a farsi scritturare. Il centralino della polizia dice che c'è una chiamata per me da Seattle. È la Rosen. Sul piccolo schermo compare il viso di Rachel. Pronto, signor Deckard? Mi dica. Noi della Rosen abbiamo discusso la situazione dei Nexus 6 fuggiti e pensiamo, conoscendoli bene, che le sarebbe utile se uno di noi lavorasse con lei. Ah sì? E perché? Cosa vorreste fare? Quando un'unità Nexus 6 è avvicinata da un essere umano è diffidente, ma se la contatta un altro Nexus 6... E verrebbe lei dunque? Sì. Ci penserò e le farò sapere. Non ci pensi troppo, signor Deckard. Lei non conosce questi androidi, sono pericolosi, velocissimi, oltre le sue possibilità. Le ho detto che ci penserò. Senza di me, uno di loro sarà il primo a sparare. Arrivederci. Che razza di mondo. Un androide che offre il suo aiuto a un cacciatore a premio. Rachel. Entro nell'enorme ventre di pietra e acciaio del vecchio teatro d'opera. E sono travolto all'improvviso dal frastuono melodioso e dissonante. Che cos'è questo? È una prova generale? Aspetta. Aspetta. Lo riconosco, questo... Questo è il flauto magico di Mozart. Una vera rarità di questi tempi. Sei tu, Zeca? Il poliziotto sovietico, alto, grasso, con il naso schiacciato e un sorriso simpatico. Dai, entriamo. Sul palcoscenico Luba Luft canta. E resto sorpreso dalla bellezza della sua voce. La Rosen l'ha costruita davvero molto bene, devo ammetterlo. Loro creano e io distruggo. Vieni, dai, andiamo ad aspettarla in camerino. Entrando, lei si ferma sulla porta a guardarci. Chi siete? Nella sua voce c'è una freddezza particolare che ho già trovato in molti altri androidi. Grande intelligenza, grandi capacità e questa raggelante freddezza. Siamo poliziotti, signora Luft. Dobbiamo sottoporla ad un test. È necessario? Ho molto da fare. Sì, signora, sì, è necessario. Estraggo i miei strumenti dalla valigetta mentre Kadali si sistema alle spalle di Luba. Pensa che io sia un androide? È questo che lei pensa? Non sono un androide. Non sono mai stata su Marte, io. E mi dica... Questo test che vuole farmi, lei lo ha superato? Sì, signora, sì, l'ho superato. Potrebbe essere una falsa memoria. Non accade forse che gli androidi vadano in giro con false memorie? Le mie mani sistemano le manopole, ma non sono molto ferme. Mi sento sempre più a disagio. Kadali mi guarda, poi guarda Luba. Ha una strana espressione. Il suo sorriso è scomparso. Va bene, basta. Procediamo con il test. Seleziono la prima domanda. Lei è seduta davanti alla televisione e improvvisamente vede una vespa che le cammina sul braccio. Cos'è una vespa? Un insetto col pungiglione che vola. Oh, che strano. Esistono ancora? Mi risponda, per favore. Mi dica la parola tedesca. La parola tedesca? Perché? Vespe. Ah, vespe, sì. E la domanda? Non ricordo più la domanda. Mi sto incazzando davvero. Mi pare che Kadali sorrida di nuovo. Si è spostato lentamente e adesso sta accanto a me a guardare lo schermo. Va bene, facciamo così. Allora, un'altra. Proviamo un'altra. Lei è ad un banchetto. L'antipasto consiste di cane bollito ripieno di riso. Nessuno ammazzerebbe un cane per mangiarlo. Valgono una fortuna, i cani. Se poi è un surrogato, sarà fatto di fili e motori. Non si possono mangiare. La sua risposta, mi dia la sua risposta. Insomma, non le sto forse dando risposte. Risponda a questa allora. Ha un appuntamento con un uomo. Lui le chiede di andare nel suo appartamento. Mentre si trova lì. No! Non sarei mai lì. Mi ha fatto una domanda sbagliata. La vedo per la prima volta alzare lentamente lo sguardo su Kadali. Com'è silenzioso il suo collega. Non ha detto una parola. Ha fatto il test anche a lui? Sento Kadali trattenere il respiro. E all'improvviso, con una velocità impressionante, Luba vola verso la porta. Due pistole laser simultaneamente la colpiscono, estesa a terra, scomposta, il bel viso contratto, sta morendo. Kadali si china su di lei. Tu non sei umano. Se l'avesse schiaffeggiato. La voce di Luba finisce in un gorgoglio. È morta. No, sbagliato. No, mi dico, non è morta. È terminata. Saliamo sulla mia auto per portare Luba al comando di polizia. Rick, vorrei sottopormi a testa. C'è tempo, Sandor, c'è tempo. Io credo che mi dimetterò, lo sai? Ne ho abbastanza. Lei era davvero una splendida cantante. Aspetta, se sono un androide e tu mi uccidi, puoi prenderti il mio scoiattolo. Guarda, lo scrivo. Gli androidi non possono fare testamento, sai? E allora te lo prendi e basta. È un animale vero, sai? Io amo il mio scoiattolo. Tutte le mattine gli do da mangiare e gli cambio la paglia. Gli pulisco anche la gabbia. Stai zitto. E io quando la sera torno a casa lo lascio libero per l'appartamento. Stai zitto. E lui, devi vedere come corre da tutte le parti. Ho messo anche una ruota nella gabbia, lui gira e corre. Zitto. Rick, se sono un androide, come faccio ad amare il mio scoiattolo? Non lo so, Sandor, non lo so. Un difetto. Sono un androide difettoso. Dai, ti prego, andiamo. No! Prima il test. Alla fine il test non lascia dubbi. Sandor mi porge il suo laser e mi dice con calma. Devi farlo, Rick. Non posso. Allora lo farò io. Ah sì? E come farai ad ucciderti senza il laser? Trattenendo il respiro. Ma è impossibile, Sandor, è impossibile. Impossibile, gli androidi non possiedono il nervo vago che collega il cervello al diaframma, come gli uomini. Ora vai, lasciami qui. Ma morire in quel modo? È doloroso, sì. Sì, è doloroso. Mi rigiro di scatto e fulmino Kadali con il laser. Due settimane di stipendio e per di più sotto il sedile c'è una bottiglia di Chablis, un vero prodotto d'antiquariato. Ma certo, la porta a Pris, e infatti bussa alla sua porta mentre il cuore gli scoppia in petto. Sono Isidor, ho delle cose per te. Lei socchiude appena la porta e mette la testa di fuori. Ah, sei tu. Magnifico. Vieni, beviamo. Se vuoi posso diventare tuo amico. Io ho già amici. E dove sono? Non lo so. Forse i cacciatori a premio li hanno già presi. Forse sono l'unica rimasta. Che cos'è un cacciatore a premio? Uno che uccide androidi, Isidor. E possono ammazzare anche te? Ecco perché hai tanta paura. All'improvviso si sente bussare alla porta. Non muoverti. Non apriamo. Stiamo fermi. Una voce giunge dal pianerottolo. Rhys? Sei qui? Sono Roy. E con me c'è Irmgard. Rhys si lancia alla porta e la spalanca. Ed ecco una donna bionda con gli occhi azzurri che abbraccia Rhys. E poi Roy. Gigantesco, alto, massiccio. Ma si muove con la leggerezza di un felino. Rhys è vibrante di felicità. Lui è Isidor, un vicino. Si prende cura di me. Siamo rimasti in tre, Rhys. Forse un quarto. Non lo sappiamo. Sono strani. Come se una maligna spersonalizzazione pervadesse i loro processi mentali. Perché non vai da lui? Questo è lui. Potrebbe proteggerti meglio. E noi resteremo qui. Una testa di gallina. Non intendo vivere con una testa di gallina. Non chiamarlo così, Rhys. Fai come dice Roy. Il cacciatore a premio è uno abile. Si muove in fretta. Vai. Io installerò dei componenti elettronici per ascoltarci da un appartamento all'altro e per individuarlo se viene. Credo che sarebbe splendido, Rhys, se tu venissi da me. Io mi prenderei, che ne so, una vacanza. Mi prenderei cura di te. Roy ha cominciato a frugare le pareti e a collegare i fili. Voi siete androidi. Io lo capisco perché vogliono uccidervi, ma a me non importa. Sapete, sono speciale anch'io. Ma voi avete un'intelligenza superiore. Io potrei imparare un mucchio di cose da voi. Intanto prendi la mia valigia e svuotala. Libri? In quella valigia non ci sono altro che libri. Anche gli androidi si sentono soli, Isidor. E poi su Marte c'era molto tempo libero. Ci siamo appassionati di questa letteratura. Racconta di viaggi spaziali. Ma prima dei viaggi spaziali. Prima? Com'è possibile prima? Immaginazione, Isidor. Si chiama immaginazione. Ci sono storie di creature di altri mondi e storie della Terra quando non c'era la polvere radioattiva. Ti interessano? Oh, sì, sì, sì. La mia testa di gallina. Sì, puoi leggerli se vuoi. Dopo aver ritirato il premio per Luba e per Cadali, ora desidero soltanto correre in un negozio di animali. Le interessa qualche animale in particolare, signore? Ho $3,000 in contanti. Quanto costa quella famiglia di topi laggiù? Topi? Ma tutti hanno un topo, signore. Forse lei può permettersi qualcosa di più. Una capra, magari? Il commesso mi indica una grande capra nera piantata sulle quattro zampe al centro di una gabbia. Oh mio Dio, sembra molto bella. Bella? Io tiro fuori il mio catalogo Sydney e guardo i prezzi delle capre. Posso... sì, posso dare un anticipo e poi le rate. Va bene. Affare fatto. Ottimo. Tornando a casa mi sento eccitato. Adesso ho anch'io un animale vero, non elettrico. Non potevamo più andare avanti con una pecora elettrica. Fiacca il morale una pecora elettrica. Adesso io riacquisterò fiducia in me stesso e nelle mie capacità. Rick Deckard. Atterrò sul tetto di casa e deposito dolcemente la capra. E poi scendo giù. Iran! Ehi, così tardi? Vieni, vieni, ti voglio mostrare una cosa. Dai, vieni. Sulla terrazza accendo i riflettori e illumino la capra. Così tutti possono vederla. Oh mio Dio, ma è vera! Non è falsa. È vera, assolutamente vera. Andiamo giù a ringraziare Mercer. Sento la voce di Bill Barbour dal tetto di fronte. Ma che bella capra hai, Deckard! Congratulazioni! Chissà che non vi nascano dei piccoli, eh? Sai, potrei offrirti un cavallino per una coppia di capretti. Oh, grazie, Bill, grazie davvero. Gli sorrido e seguo mia moglie in casa. Iran, Sono sicuro che questa capra curerà la mia depressione e anche la tua. Sì, sì, sì, sì. Ma adesso vieni da Mercer. Sai, oggi sono stata a lungo con lui. Mi ha aiutato a resistere alla depressione. Sentivo la presenza di tutte le persone della Terra che si erano fuse nello stesso istante. Vieni, vieni, Rick. Voglio che tu trasmetta a tutti gli altri il sentimento che provi adesso. Sarebbe immorale tenerlo solo per noi. Sullo schermo, la figura vecchia, sbiadita e sporca di Mercer, si affatica verso la cima. Manovro le manopole della mia scatola dell'empatia e mi trovo subito in mezzo ad un paesaggio desolato, un deserto, senza acqua, senza alberi. Merda, Mercer, Mercer, Mercer. Sono tuo amico. Ho bisogno di aiuto, Mercer. Come posso salvare te se non posso salvare me stesso? Non c'è salvezza. E allora a che cosa serve tutto questo? Tu a che cosa servi? Per mostrarti che non sei solo. Io sono qui. Dal basso qualcuno lancia una pietra contro Mercer, sono colpito all'orecchio e quando lascio andare le manopole, l'orecchio sanguina ancora. Penso che mi rimangano 3 androidi, se il calcolo è esatto. Li terminerò tutti, e dopodiché sono gli ultimi. Io poi mi ritiro, e intanto so dove posso trovare aiuto. Rosen. Mi passi Rachel Rosen. Mi dica, Deckard. Allora, che cosa fa? Mi aiuta? Vuole che venga a San Francisco? Questa notte subito. Non so, è molto tardi. Devo ritirarli stanotte. Lei ha l'aria stanca, Rick. Nessuno ha mai ritirato 2 androidi in un giorno solo. Vieni. Perché? Prima andiamo in albergo. Vieni. Ed enorme dell'albergo mi rileggo le copie che riguardano gli androidi Roy e Irmgard. Su Marte leggo che Roy era addetto a lavorare sui campi, forse vuole soltanto una posizione migliore, forse vuole solamente essere libero. Irmgard è la sua donna, me lo devo ricordare, questo me lo devo ricordare. Dunque gli androidi amano e sognano gli androidi. Non era stato un sogno per loro la Terra. Eccomi. Rachel tiene in mano una bottiglia di Barbour. Li hai trovati? Sì. Si nascondono in un caseggiato in periferia. Apriamo la bottiglia. Vale una fortuna, sai. Non è sintetico, è di prima della guerra. Fatto con vero lievito. Rachel si sfila il soprabito e io la guardo. Ha una grande massa di capelli neri, il viso magro, Il corpo esile come un adolescente e il piccolo seno che le dà un profilo quasi infantile mi sembra una ragazza, non una donna. A parte quegli occhi, acuti, inquieti, profondi. Lei si sdraia sul letto, io le vado vicino con il barbo nei bicchieri. C'è qualcosa che non va. Quella Nexus 6, l'ultima, è del mio stesso tipo, questo non mi piace. Si chiama Pris Stratton. Prendo nel palmo della mano il suo piccolo mento a punta e mi sollevo il viso. Chissà che effetto fa baciare un androide. Quando la bacio sulle labbra secche, Rachel resta completamente impassibile. Per me è diverso. Le slaccio la camicetta, lei si toglie il reggiseno. Gli androidi non possono avere bambini. È una perdita grave. Che cosa si prova ad avere un bambino? Cosa si prova a nascere? Rachel, io non so se posso farlo. Io non so se posso fare l'amore con te. Ascolta, Rick. Dopo verrò con te e ucciderò io Pris. Per te. Andrai di nuovo a letto con un androide? Se somiglierà a te. Sai quanto vive un androide? Rick. Io esisto da 2 anni. Quanto tempo credi che mi resti? Ancora 2 anni. Già. E com'è tua moglie? Sei triste. Non sarai più capace di cacciare gli androidi, sai? Non c'è mai riuscito nessun cacciatore dopo essere stato con me. Non ce la farai, l'ho visto. Quel dolore sul tuo viso, lo stavo aspettando. Sai quante volte l'ho fatto? Tante. Tante, tante, tante. E se invece ti uccidessi? No. C'è una forte multa, sai. Io sono di proprietà della Rosen. Tu sei calma, Rachel, ma io l'ho già visto con altri androidi. A un certo punto è come se la vostra forza vitale si dileguasse. Come se un fuoco interiore si spegnesse, crepitando. Sì. Allora fallo. Per favore, sull'osso occipitale, proprio alla base del cranio. Scendi e vattene. Chiamati una macchina e torna a Seattle. Vai. Vedi? Proprio come è successo agli altri. Lo sapevo. Lo sapevo che non ce l'avresti fatta a uccidermi e non riuscirai a ritirare nessun androide. Mai più. Vai. Torna a casa da tua moglie. Vai. Torna a casa dalla tua capra che ami più di tua moglie. Vai. Vai. No. Isidor porta in casa le valigie di Pris. Manca poco, gente! Dite ai vostri amici di restare in ascolto, eh? Lasciale lì! Ora voglio sentire la televisione. C'è il grande annuncio di Buster, no? Secondo me lui sentiva ancora quella travolgente sensazione di felicità. Per la prima volta nella sua triste vita poteva essere utile a qualcuno. Sì, lo comandavano, sì, lo sfruttavano un po'. Lo sapeva, ma erano suoi amici. Raccoglie ancora i sacchetti di Pris e sale al pianerottolo. E davanti alla sua porta c'è una piccola cosa che si muove nella polvere. Lascia cadere i sacchetti e si inginocchia. Un ragno. Un ragno minuscolo, ma vivo. Tremando, svuota una bottiglietta di chiodi e ci mette il ragno. Quando entra vede tutti e tre davanti al suo televisore, da dove esce la voce di Buster Friendly. Adesso gente, adesso la notizia sensazionale. Siete pronti? State comodi? Forse voi penserete... Ho trovato un ragno. Fammi vedere. Zitto, fammi sentire. Non ho mai visto un ragno. Tutte quelle zampe. Perché ha bisogno di tutte quelle zampe, Isidor? Perché è così che sono fatti i ragni. 8 zampe. Sai cosa penso? Penso che un ragno non abbia fatto bisogno di tutte quelle zampe. 8 zampe? Perché non gliene dovrebbero bastare 4? Prova a tagliarne la metà e vediamo. Irmgard Pasta ha preso un paio di affilate forbici da unghie. Isidor è preso da un folle terrore. Pris va in cucina, si siede al tavolo, rovescia la bottiglietta e fa uscire il ragno. Per piacere, per piacere, per piacere. Vale qualcosa questo animale? Per piacere, non mutilarlo. Pris taglia una zampetta del ragno. 1. Nel soggiorno la voce di Buster dice: sto per raccontarvi l'impressionante scoperta che scuoterà il mondo. Pris taglia un'altra zampetta. 2. Tenendo il ragno tra le punte delle dita, sorride. In TV la voce continua: bene, bene, bene, bene. Abbiamo sottoposto gli ingrandimenti a rigorosi esami in laboratorio. Vieni, Pris! E sapete cosa abbiamo scoperto? Vieni a sentire! Il cielo, e la luna, e la collina, tutto il paesaggio di Mercer sono artificiali! È importante! E dunque la luna è dipinta, il cielo è dipinto, tutto il paesaggio è dipinto, capito, gente? E le pietre che vengono lanciate contro Mercer da invisibili nemici sono di plastica morbida, rimbalzano! E sentite anche questa, gente! Abbiamo amici a Hollywood e hanno svelato che Mercer è soltanto un vecchio attore disoccupato! 3. Pris ha tagliato 3 zampette al ragno, che ora arranca penosamente sul tavolo della cucina. Ascolta! Pris sospende la mutilazione del ragno e ascolta la TV. Naturalmente l'abbiamo identificato, il nostro attore, gente, si chiama Al Jerry Page, ed è talmente vecchio che la sua mente è confusa, quasi distrutta. Ma dunque, gente, chi ha inventato questa truffa incredibile? Chi l'ha diffusa? Chi? Non lo sapremo mai, ma quello che sappiamo oggi è che il mercerismo è una frode. Mi state sentendo? Avete capito bene o devo ripetere? Il mercerismo è una frode. Con le forbici Pris taglia un'altra zampetta. 4. 4. Ma non vuole camminare. È fatta. Il mercerismo e l'empatia sono una truffa. È fatta. Non vuole camminare. Roy prende una bustina di fiammiferi, ne accende uno, lo avvicina al ragno, sempre più vicino, sempre più vicino. Irmgard guarda Isidor. Cosa c'è che non va? Non faccia quel viso. Glielo pagheremo il ragno, va bene? È infuriato. Dai, Isidor. Non sei contento di quello che ha raccontato Buster? Lui è uno dei nostri, sai? Isidor le dà una spinta e afferra l'animaletto mutilato, corre al lavandino e lo affoga. E dentro di lui anche le sue speranze affogano, come il ragno. Forse era l'ultimo ragno della terra e se n'è andato. Anche Mercer se n'è andato. E Isidor vede la polvere e la rovina dell'appartamento diffondersi da ogni parte. Sente arrivare il chippo, il disordine finale di tutte le forme. L'assenza totale che avrebbe trionfato cresce intorno a lui, irresistibile. Gli armadietti della cucina si sbriciolano. Il pavimento cede sotto i piedi, alza un braccio a toccare il muro. La sua mano sprofonda nella parete. Cadono a terra frammenti grigi di tonaco che assomigliano alla pioggia radioattiva lì fuori. Si siede e le gambe della sedia si piegano come tubi marci. Cosa sta facendo... Isidor, fermo! Stai rompendo tutto! Non sono io! Non sono io! Dal pavimento in pezzi emergono parti di animali, la testa di un rospo, mani mummificate di una scimmia, un asino, mentre un corvo gli becca gli occhi, singhiozzando invoca Mercer e si ritrova su quella vecchia collina carbonizzata che sembra la tomba del mondo. Mercer è dipinto il cielo. Sì? Tu sei una truffa. Io sono una truffa. Ma ho qui una cosa per te. Guarda. Apre la mano e Isidor vede il ragno. Ha di nuovo le sue 8 zampe. Grazie. Zitti. C'è qualcuno. C'è un cacciatore nella casa. Spegnete tutte le luci. Isidor, vai, parlagli, digli che qui ci sei solo tu, vai. Isidor avanza lentamente sul camerottolo, scende le scale e poi mi vede che esco dall'ombra, il laser puntato su di lui. Chi sei? Mi chiamo Isidor. Sono qui tutti e tre, vero? No. Tu chi sei? Rick Decker. Sono un investigatore della polizia di San Francisco. Tu li vuoi uccidere? Sì, Isidor. Devo trovarli e terminarli. È il mio compito. Perché? Perché? Perché sono fuggiti da Marte, perché sono illegali, perché sono pericolosi, perché non sono umani, perché... Isidor, lo so che sono qui. Dimmi soltanto a che piano sono. Potrei darti una parte del premio se mi aiuti. Una testa di gallina non può avere premi. No? Ma può avere un piccolo animale tutto suo, vero? Io ho già un ragno. Un ragno? Mostramelo. Isidor riprende a scuotere la testa. Lo guardo fissamente, poi gli do una spinta che lo fa cadere in ginocchio e salgo di corsa le scale, leggero, senza fare rumore. Sento un fruscio, mi volto di scatto puntando il laser e vedo una donna che mi viene incontro sorridendo con le braccia distese per abbracciarmi. Rachel. E poi sparo. Il corpo di Pris esplode e i frammenti volano dappertutto. E da qualche parte ci sono ancora Roy, Irmgard e sanno, certamente loro sanno quello che ho appena fatto. Una porta si socchiude, la spalanco con un calcio e contemporaneamente sparo a Irmgard. E dall'altra stanza sento provenire il lamento lungo, rantolante, di Roy. E tu l'amavi? Va bene! E io amavo Rachel! Io amavo Rachel! Mi trovo a fissare il laser che è l'androide e mi butto per terra sparando. Il grande corpo di Roy si spezza, crollando in una pioggia di parti separate. Frammenti di metallo rimbalzano in terra, circuiti in terra, fanno ancora sussultare braccia, gambe. Ma ormai... ormai è morto. Terminato. Finito. Quasi un record. Ora posso ritornare da Iren, dalla capra, e avremo tanti soldi, per un po' di tempo. Ma resto ancora immobile, ho le vertigini. Alle spalle sento Isidor singhiozzare. Iran mi corre incontro sul tetto, è sconvolta. Io la abbraccio. È finito tutto adesso. Rick, devo dirti una cosa. La capra è morta. Abbasso la testa. Sento il corpo che mi si affloscia tutto. Non si è ammalata. Uscire dalla gabbia, l'ha portata sull'orlo del tetto e l'ha spinta giù. Sì. Hai visto chi è stato? Una ragazza, Rick, piccola, con i capelli neri e due occhi immensi. Io ero lì, impietrita, e lei non ha fatto alcuno sforzo per nascondersi, come se non le importasse. No, Irene, no, non le importava. È orribile, così inutile, così... Un lungo sospiro mi esce dall'anima. Rick, ora riposati. Vuoi che metta l'organo sul 6707? 670...

qualcuno aveva costruito un piccolo castello di sabbia al centro dello sterno. Cominciarono le amputazioni. Le mani, i piedi erano stati rimossi da una fabbrica di cibo per animali e dai monconi colava un fluido nero, viscoso, che macchiava la sabbia e i bianchi ossi di seppia. Il cadavere era avvolto da un olezzo indicibile. Poi fu decapitato e la carcassa ora somigliava a una balena. L'interesse degli spettatori svanì, la riva rimase deserta, molti mesi dopo vari pezzi del corpo smembrato del gigante cominciarono a ricomparire in tutta la città. Si videro le ossa nelle fabbriche di fertilizzante, due enormi femori appesi alle pareti di una grande macelleria, un omero all'ingresso di un cantiere navale, due costole messe ad arco in un giardino. Un grande lembo di pelle conciata e decorata apparve in una vetrina di maschere e bambole e l'enorme pene copriva un'intera parete del baraccone delle meraviglie di un circo. Il resto dello scheletro, scarnificato, giaceva come un relitto sulla spiaggia e d'estate forniva un appoggio per i gabbiani stanchi del vento. Lo spettacolo Blade Runner, ma gli androidi sognano pecore elettriche? Di Philip Dick, con Marco Foschi e Simone Castano, Tania Garriba, Fortunato Leccese, Alice Palazzi, direzione musicale e percussioni Gianluca Ruggeri, violoncello Elisa Astrid Pennica, regia Lisa Ferlazzo Natoli. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Moni Avadia in veste di attore per presentare lo spettacolo Moby Dick di Herman Melville, adattamento Micaela Miano, regia Guglielmo Ferro. A Roma al Teatro Quirino dal 1 al 13 aprile 2025, ben trovato. Grazie, grazie, un caro saluto agli ascoltatori e grazie per l'invito. Cos'è questo nuovo impegno? Io sono qui nella veste di attore in un ruolo molto stimolante, molto forte, che è quello del capitano Huckabee, il capitano della baleniera Pequod, con la sua ossessione di trovare e uccidere la balena bianca, che è diventata così una metafora della natura immensa e poderosa, e lui che vuole sottomettere la natura, la tensione generale che la natura è per l'uomo. E quindi, siccome è scontrato con questa balena, è rimasto storpio, cioè ha un arto in meno. Naturalmente parliamo di un romanzo che accoglie quelle che erano le visioni del tempo di questo immane animale, che corrisponde un po' al Leviatano, gigantesco animale, e è un po' la metafora dello scontro tra l'uomo e la natura, dove l'uomo si sente il padrone, quello che ha diritto a cacciare e anche a dominare la natura. Per cui Huckabee è uno che non accetta l'idea di riconoscere nella natura una propria fisionomia, una propria autonomia, anche se ha qualche momento in cui riconosce che la balena è una straordinaria creatura di grandissima maestà, però alla fine il suo desiderio è di soggiogarla, uccidendola, e la pulsione verso lo scontro finale con questo animale immenso e straordinario però lo porta a incontrare la morte. C'è in Acab una sorta di tanatofilia, per lui tutto il resto, anche la caccia alle balene per procurare l'olio, che è la missione della sua nave, non vuole neanche cominciare a pensarci prima di avere avuto il re della relazione con Moby Dick. E allora trascina tutto l'equipaggio in una navigazione sempre più perigliosa, sempre più ossessiva, pur di incontrare Moby Dick. Alla fine incontra, e sfidando Moby Dick per ucciderla, lui incontra in realtà la sua morte, e con lui muore la gran parte dell'equipaggio, si salva solo una figura, Ismaele, che poi sarà quello che racconterà tutto al mondo. E lo spettacolo è uscito da un progetto di Guglielmo Ferro che io trovo particolarmente felice. Guglielmo veramente ha avuto un'intuizione nell'affrontare teatralmente questo messaggio. Lo spettacolo è uno spettacolo teatrale vero e proprio. Noi adesso siamo più abituati ai monologhi, a forme ridotte, perché c'è il pianisteo comune del non ci sono i soldi. Questa volta una coproduzione ha messo in piedi un vero spettacolo teatrale, con anche un afflato visuale. Ci sono due proiezioni che danno l'idea della temperie della navigazione e delle intemperie, e così sono una compagnia secondo me molto molto ben assortita. Sono compagni di lavoro non solo bravissimi come attori, ma anche umanamente delle magnifiche persone. E Guglielmo ha un particolare talento nel riunire compagnie che sono solidali nel lavoro e anche nell'avventura, che è una nuova messa in scena, è sempre. E quindi io mi trovo particolarmente bene, ed è uno spettacolo molto per il pubblico, pieno di emozioni, pieno di ritmo, di eventi, e così io mi sono trovato ad avere, per scelta di Guglielmo, questo ruolo magnifico, il ruolo del capitano Acab, una personalità a suo modo grandiosa, e poi anche che esprime una visione del mondo che a tratti rasenta il nichilismo, e poi lui considera solo l'umano come destinatario della creazione. Lui ha un confronto, il coprotagonista è Starbuck, che è il suo primo ufficiale, il quale è un quacchero, un cristiano molto devoto, e c'è uno scontro anche tra loro due, per via che il cristiano cerca di salvare la vita, di vedere la vita, di essere grato al divino che gli permette di cacciare e di vivere attraverso la caccia. Invece Acab arriva a dire a Starbuck: guardi nella profondità e vedrà un continuo interminabile massacro che è in atto. Chi ha messo tutte queste creature dentro l'oceano perché si divorassero l'un l'altra? E dice: l'uomo può solo girare come un verricello, come dire, non può dare un senso a tutto questo. Il senso sta nell'affermare la propria forza, la propria superiorità e il proprio dominio sulla natura. Così la vedo io, perlomeno. Lo spettacolo Moby Dick di Herman Melville, adattamento di Micaela Miano, regia Guglielmo Ferro, in scena a Roma, Teatro Quirino, dal 1 al 13 aprile 2025. Un saluto e un ringraziamento all'attore Monio Vadia. Alla prossima! Grazie di cuore per avermi ospitato. Un saluto carissimo ai vostri ascoltatori. Con Chiara Becchimanzi per presentare lo spettacolo Revenge Porn di James Fritz a Roma, all'Off Off, dal 4 al 6 aprile 2025. Ben trovata. Grazie, ben trovato, grazie mille come sempre. Cosa ci racconta questo lavoro? un viaggio infernale, ma da commedia nera, di questi due genitori, Diana e David. Io interpreto Diana, chiaramente, invece il mio compagno Claudio Vanni interpreta David. Un viaggio infernale perché scoprono che il loro figlio 17enne, il loro perfetto Tommaso, Tommy, potrebbe aver commesso un errore terribile, e quindi è un viaggio alla scoperta dell'etica della famiglia, un viaggio che li porta davanti a un bivio, cioè scegliere di proteggere Tommy nonostante tutto oppure di insegnargli qualcosa. E soprattutto è un giallo, perché sostanzialmente è l'indagine di Diana che durante tutto lo spettacolo cerca di arrivare alla verità, e a un certo punto si rende conto che forse è meglio non saperla la verità. Tutto questo con la partecipazione anche di Samuele Ghiani e Flavia Lorusso, che sono due giovanissimi e bravissimi attori che interpretano rispettivamente il migliore amico di Tommy e la fidanzata di Tommy. Perché la particolarità di questo spettacolo è la genialità della penna di James Fritz, è che il diretto interessato in scena non c'è mai, non si vede mai, così ognuno di noi se lo può immaginare un po' come vuole. Potrebbe essere tuo cugino, suo nipote, suo figlio, insomma potrebbe essere un componente di ognuna delle nostre famiglie. Come sei entrata in questo progetto? Giancarlo Nicoletti, che è un regista favoloso e molto esigente, infatti questo ti dico subito, è il lavoro più difficile della mia vita, io spero di essere all'altezza. Giancarlo Nicoletti, che è il regista di Altra Scena, che adesso sta in scena come compagnia con moltissimi altri lavori in giro per l'Italia, ci ha chiamato per questo progetto, mi ha fatto leggere questo copione che io ho adorato immediatamente, e quindi l'abbiamo messo in scena, grazie anche, perché questo non è un debutto, è una ripresa da settembre, grazie alla produzione del Comune di Roma Capitale, perché abbiamo potuto fare il primo allestimento grazie a un bando pubblico. Cosa hai apprezzato del testo? Innanzitutto la scioltezza, molto British, questo essere tagliente, questo mischiare continuamente il comico e il tragico, perché comunque nonostante il tema sia pesante e profondo ed emotivamente molto impattante, lo spettacolo è una commedia e rimane soprattutto nella prima parte una commedia nera, inquietante, però dal ritmo pazzesco già come è scritta, cioè è una di quelle commedie per cui tu già leggendola ti rendi conto del ritmo che deve avere. E poi questo personaggio, il personaggio di Diana, entra in realtà, sia Diana che David hanno moltissime sfumature che è proprio appassionante da attori andare a indagare, sospendendo il giudizio, no? Perché sono due persone all'apparenza per bene che in realtà nascondono i mostri, come siamo tutti e tutte noi poi sostanzialmente, perché i mostri dentro ce li abbiamo tutti, ed è molto molto interessante, anche formativo, andare a scavare dentro. Io ho dovuto, ecco, dimenticare un po' di femminismo per questo ruolo, ho dovuto immaginarmi madre, immaginarmi alto borghese, snob, insomma è stato un bel viaggione. Com'è stato il lavoro con gli altri e le altre? È interessante stare in scena col tuo compagno per una serie di motivi, perché comunque noi siamo una coppia nella vita e interpretiamo una coppia sul palco, una coppia un po' diversa da come siamo noi, però è chiaro che è stato molto divertente stare in scena insieme, è un'occasione che aspettavamo da tanto e siamo stati proprio felici di poterci sfogare, diciamo così, con questi due ruoli. Samuele e Flavia sono bravissimi e per la maggior parte del tempo in scena ci siamo io e Claudio, però le loro scene sono come una punteggiatura, un controtempo su una partitura musicale, sono assolutamente necessarie, sono molto intense, i due ragazzi sono bravissimi e sanno ascoltare molto bene, sono molto emozionanti, quindi è stato proprio bello. Il sottotitolo recita 4 minuti e 12 secondi. Il titolo originale della pièce di James Fritz è 4 minuti e 12 secondi, che è la durata di un video. Il problema di questa famiglia è che esce un video online in cui il figlio 17enne fa sesso con la sua ragazza, e questo è il primo problema. Il secondo problema è che potrebbe averla stuprata. La durata del video dà il titolo originale allo spettacolo. Abbiamo aggiunto, diciamo così, anche sul consiglio del teatro che ci ospita, l'Off Off, il titolo di testa Revenge Porn, perché fosse un po' più chiaro per il pubblico il tema dello spettacolo. Com'è stato il lavoro anche con la regia di Nicoletti? Nicoletti è un adorabile rompiscatole, nel senso che è veramente esigente al millimetro, è capillare su ogni parola, ogni intenzione, ogni movimento, ogni respiro, ogni reazione alle parole degli altri. A parte che ha anche tradotto il testo, quindi sia diretto che tradotto, e l'ha tradotto secondo me benissimo, ma poi proprio come cura dell'emotività dei personaggi, ma non solo, del ritmo generale. E una delle cose che ho apprezzato di più è questa intenzione di rimanere leggero, leggeri, ma non leggeri nel senso di superficiali, leggeri proprio nel senso di un ritmo godibile che plana sulle cose, un po' come diceva Calvino, no? Lo spettacolo Revenge Porn, 4 minuti e 12 secondi, di James Fritz, in scena a Roma, all'Off of Theater, dal 4 al 6 aprile 2025. Un saluto e un ringraziamento all'attrice Chiara Becchi Manzi. Alla prossima! Grazie a te Federico, grazie, alla prossima! Con Emanuela Belfiore, una delle organizzatrici della mostra Frigidaire, storia e immagini della più rivoluzionaria rivista d'arte del mondo, al Museo di Roma in Trastevere dal 19 marzo al 7 settembre 2025. Ben trovata! Ben trovato Federico, ben trovati tutti. Ci presenti questa mostra? È una mostra, ma è un evento. Frigidaire torna a Roma, perché dovete sapere che Frigidaire nasce nell'ottobre del 1980 e nasce proprio a Trastevere. E sarà un modo per conoscere Frigidaire. Attenzione, ci tengo a dirlo, non è una mostra nostalgica, quindi non si esalta un passato, anche perché in mostra ci saranno molte opere di artisti che continuano a collaborare con Frigidaire, perché anche se si pensa che Frigidaire insomma non ci sia più, in realtà Frigidaire c'è. E c'è uno slogan, visto che mi occupo anche della comunicazione per Frigidaire e quindi parlo di slogan, che la in un certo senso identifica. È la rivista che c'è anche quando non c'è. Quindi in mostra ci saranno 300 opere, copertine, tavole originali, fotografie, reportage legati alla storia di Frigidaire e dei suoi fondatori indubbiamente. Però ci saranno opere di nuovi artisti che sono legati a Frigidaire, che ancora comunque è viva e che presenta anche due almanacchi l'anno in una sorta di enciclopedia in cui racconta il vecchio ma soprattutto il nuovo. Come nasce questa mostra? Nasce per caso, ci siamo presentati al Museo di Roma in Trastevere, abbiamo presentato il nostro progetto e quindi è stato accettato, anzi ben accolto, quindi è una mostra promossa da Roma Capitale, dall'Assessorato alla Cultura, dalla Sovrintendenza Capitolina e Beni Culturali e organizzata però da Frigolandia, curata da Vincenzo Sparagna, fondatore e attuale direttore di Frigidaire. Com'è stata la scelta delle 300 opere esposte? È stata complicata perché voi dovete sapere che l'archivio di Frigidaire continua a vivere in un posto che è una repubblica indipendente che si chiama Frigolandia. Frigolandia è a Giano dell'Umbria e lì c'è tutto l'archivio storico, quindi capite bene che l'archivio storico di Frigidaire, che ha attraversato anni importanti con una produzione immensa, insomma è stato complicato poi fare una selezione delle opere e c'è soltanto una minima parte, però comunque ripeto sono circa 300 opere, quindi è un viaggio all'interno di quella che è stata appunto Frigidaire e il movimento artistico che rappresenta, ma non solo, è un'arte come disse questo nome inventato da Pazienza e da Sparagna, l'arte mai vista, per indicare proprio un'arte originale, imprevista, pop, antipop, caratterizzata da un mix che sono il fumetto, la satira, la cronaca, la pittura, la fotografia, ma quasi in un continuum in cui in tutto ha una connessione intellettuale al suo interno, è un viaggio all'interno di un mondo meraviglioso, artistico e poetico. Quanti sono gli artisti rappresentati? Sono tanti, abbiamo Pazienza, abbiamo Liberatore, abbiamo Scozzari e poi abbiamo anche nuovi artisti. Com'è stato pensato l'allestimento? L'allestimento è stato faticoso. Allora, noi abbiamo lo spazio del piano terra del Museo di Roma in Trastevere, che è un posto meraviglioso. Al cui centro c'è un chiosco, era un antico monastero. E quindi è stato pensato all'interno del perimetro del primo piano, in cui si parte, diciamo, dalla storia di Frigidaire e poi si indagano tutti gli ambiti che la rappresentano. È un modo anche per far conoscere al pubblico, soprattutto dei più giovani, un'esperienza culturale che in un certo senso può rischiare di essere dimenticata. Ci sono dei riferimenti internet per tutti i dettagli? A parte anche il Museo di Roma in Trastevere pubblicizza la nostra mostra, ma anche offline, in point particolari, in biblioteche. E per quanto riguarda invece il web, il sito di Frigolandia e tutti i social, Frigolandia Free è l'Instagram ufficiale e Frigidaire e Frigolandia sono invece su Facebook, quindi attivi, cerchiamo insomma di comunicare il più possibile attraverso il web, ma non dimentichiamo però anche il comunicare in una maniera un po' più tradizionale, no? La mostra Frigidaire, storia e immagini della più rivoluzionaria rivista d'arte del mondo, al Museo di Roma in Trastevere dal 19 marzo al 7 settembre 2025. Un saluto e un ringraziamento ad una delle organizzatrici, Emanuela Belfiore. Alla prossima. Vi ringrazio, sono io che vi ringrazio e vi invito a venire per okay. tutti, per tutte le età. Grazie, grazie Federico e a presto insomma. Con Nadia Fazio del GAP, Gruppi d'Acquisto Popolare, per presentare 20 anni di GAP, giornata del consumo critico, a Roma, Baccelli Net, domenica 6 aprile 2025, ben trovata. Buongiorno. Partiamo Eccomi dalla storia qui. Dei GAP, ce ne parli? Questo gruppo nasce 20 anni fa dall'idea di alcuni compagni che a un certo punto si sono resi conto che fare la spesa biologica, dare un senso al consumo, fare proprio un consumo critico era diventato indispensabile. Quindi dopo tentativi di acquisti così un po' a famiglia, prendendo contatti direttamente con dei piccoli produttori, si è pensato di formare un vero gruppo d'acquisto, chiamandolo popolare perché poi c'era questo fatto che esistevano già i gruppi d'acquisto solidali, ma ci siamo voluti distinguere perché doveva essere una cosa più popolare e poi un po' questo GAP che ricordava più partigiani, insomma era proprio imposta questa presunzione di avere un riferimento storico. Quindi si è formato questo gruppo all'inizio di poche famiglie, man mano invece ha preso piede quindi nel quartiere del Trullo e quindi ci sono persone proprio del Trullo ma anche persone che poi si sono aggiunti dei quartieri limitrofi più allargato. E la storia nostra è questa proprio di avere un consumo critico nel limitare gli acquisti nella grande distribuzione, aiutare soprattutto i piccoli produttori che si impegnavano a produrre cose senza ricorrere a agenti chimici e poi appunto anche cooperative che si sono impegnate sul sociale, impiegando come fanno tutti gli immigrati ma non sfruttandoli, no? La differenza è questa. Quindi è nato così, con fatiche, con discussioni, con qualcuno che se n'è andato, qualcuno che è rimasto con un po' di attrito, però poi di fatto siamo sempre riusciti ad andare avanti e a portare avanti questo discorso, che per noi è importante perché comunque è un primo atto politico quello di avere un occhio critico a quello che uno consuma, pure in questo contesto capitalistico avere un minimo di rottura rispetto a questa predominanza della grande distribuzione che poi fa i prezzi e affama i produttori e tutto il resto. Come si caratterizza la giornata di domenica? La giornata di domenica vorrà essere una grande festa perché noi siamo molto orgogliosi di questi 20 anni, perché appunto tanti sono i gruppi che sono nati ma pochi sono quelli che sono riusciti a sopravvivere e quindi ci sarà un mercatino, verranno i nostri produttori storici, altri compagni che magari vengono ogni tanto ma sono presenti e ci sarà qualche banchetto d'artigianato e anche i fumetti avranno la loro grande parte perché abbiamo sempre avuto un grande rapporto con i fumetti. La mattina ci sarà l'incontro con i nostri produttori, appunto ci sarà una chiacchierata per scambio di idee su questi argomenti di prodotti biologici e di solidarietà, insomma, perché poi ecco, noi ci siamo anche battuti molto anche sul discorso di solidarietà anche durante quel brutto periodo pandemico, abbiamo fatto questo tipo di attività nel quartiere e poi spesso facciamo iniziative rispetto ai popoli più combattenti in questi anni. Ci sarà questo incontro e poi un po' di musiche varie e poi manderemo qualche filmato di come è nata questa cosa. Vorremmo fare una grande festa, insomma questa è la sostanza, una grande festa perché siamo contenti di aver raggiunto questo obiettivo. Per dare una dimensione, quante persone ruotano attorno ai GAP? C'è uno zoccolo duro che sono quelle 15 famiglie storiche e poi ci sono gli altri che arrivano, vengono, speriamo di avere qualche altra coppia giovane perché cominciamo a essere tutti molto stagionati e quindi è un bel gruppone. Ci sono dei riferimenti internet per saperne di più? È diventato un po' che ha aggregato le varie realtà del quartiere, no? Quindi ci sono varie realtà che operano insieme al gruppo storico del GAP, lì nella Baccelli, e c'è un sito che è Baccelli Net. Cercando GAP Bio 15 si trova la nostra pagina, ecco. 20 anni di gap, giornata del consumo critico a Roma, Baccellinet, domenica 6 aprile 2025. Un saluto e un ringraziamento a Nadia Fazio dei GAP. Alla prossima! Grazie, grazie a voi. Con Alberto Prunetti, direttore artistico della terza edizione del Festival di Letteratura Working Class, al presidio ex GKN a Campi Bisenzio, dal 4 al 6 aprile 2025. Ben trovato! Grazie, grazie a voi. Direttore artistico, ma assemblatore anche, direi. Uscendo dalla neolingua del marketing culturale, in cui a volte caschiamo anche noi, però va bene. Presentiamo questo progetto. Dopo due anni in cui abbiamo provato a dare una sede, diciamo, alla letteratura working class italiana, grazie al presidio operaio dei lavoratori della ex GKN Campi Bisenzio, dopo aver nel 2023 esplorato il passato della letteratura working class attraverso le genealogie, no? E poi il presente nel 2024 con le geografie, e quest'anno è il terzo anno e tocca guardare al futuro con le prospettive. Quindi proveremo a capire quali sono le linee di tendenza future della letteratura working class e quale futuro ci aspetta, per quanto sia un lavoro più difficile, però è un lavoro necessario perché il futuro lo costruiamo anche nel presente. Il titolo di quest'anno è Noi saremo tutto. Sì, è un rimando allo slogan del movimento sindacale operaio, popolare anche dagli IWW nordamericani. Sono quelli che non sono niente, che però fanno tutto, che tengono pulite le città, che costruiscono le case, che fanno la manutenzione degli impianti, che ci permettono di accendere le luci, che ci danno da mangiare. Quelli che quando c'era il Covid dovevano scioperare per stare a casa, non potevano farlo. È la classe lavoratrice, quel sale della terra, di cui per anni ci siamo dimenticati l'esistenza. E non ce la dimenticavamo noi, perché eravamo noi la classe lavoratrice, ecco. E ci chiedevamo appunto come era possibile che nessuno parlasse di noi, del nostro immaginario, visto che nessuno lo fa, e quando lo fanno spesso in qualche maniera caricaturale. Abbiamo iniziato a parlare da soli, per raccontarci da soli, a costruirci un festival letterario, visto che non ci facevano posto nei festival letterari dei puliti o gli sponsor delle banche, le persone pulite in abiti di lino. Ci siamo fatti il nostro festival sporco davanti a una fabbrica, in sciopero permanente. Come si articoleranno queste tre giornate? Un po' come l'anno scorso, in qualche maniera, quindi cominciamo nel pomeriggio di venerdì per chiudere la domenica pomeriggio con un evento cuore che è il sabato, un momento forse clou, quando proprio come l'anno scorso è stata una cosa molto molto bella, questo festival che è anche un momento di studio, nel senso veramente è una cosa in cui si sta seduti in tanti, l'anno scorso migliaia, a sentire delle persone che, insomma, che fanno delle tavole rotonde su tutta una serie di tematiche relative alla letteratura working class. Poi nel pomeriggio del sabato ci alzeremo, il festival si fa corteo, diventeremo un corteo, andremo dalla fabbrica nella zona industriale campigiana fino al centro, alla sala del popolo di Campi, faremo la scena lì e poi ci sarà un concerto. Ci saranno tanti tanti eventi in cui appunto esploreremo anche alcune lotte operaie del presente, come l'Ilva di Taranto e la GKN, appunto la lotta della GKN tramite i libri di due operai, no? Raffaele Cataldi, operaio Ilva, e Dario Salvetti, operaio GKN, narrazioni working class nuove, potentissime. Ci saranno riflessioni sulle letterature migranti, con una ricercatrice che viene dalle Filippine, nel cinese, un ospite francese per parlare con Anne Pauli, Sena Claudia Durastanti, dell'autobiografia sociale, il racconto di famiglia, quello che i francesi chiamano il récit de filiation, che sarebbe sostanzialmente il racconto fatto dai figli degli operai, no? Quindi operai raccontano la classe lavoratrice dei propri genitori. Ci sarà Maurizio Maggiore per parlare di memoria e racconto dei luoghi deindustrializzati, la sua Lignana, la Liguria e così via. Com'è stata la scelta artistica rispetto ai vari ospiti e alle ospiti? È un continuo gioco in realtà di un puzzle, di incasti che si fatica. Molto spesso non si arriva davvero a fotografare la situazione finale. Insomma, la costruzione è un palinsesto, si ancella e si rifà tante volte. Abbiamo ospiti internazionali, ovviamente abbiamo provato a dare rilievo non solo alla forma del memoir o del racconto di fiction, ma ci sono anche, c'è un'attrice di un graphic novel, c'è uno spazio dedicato a un tema che mi sta molto a cuore, la letteratura della ristorazione, il tema, diciamo, di come si racconta il lavoro tra tavoli. Ci sarà un cameriere italiano emigrato in Austria, Luigi Harel, ha un suo libro molto interessante, Ristorike, e un'altra autrice di graphic novel, Daria Bogdanska, è polacca ma è emigrata in Svezia, quindi racconti di emigrazione e di ristorazione. Ci saranno appunto i racconti sulle mobilitazioni, ci sarà l'Ilva di Taranto, l'ho già detto, la GKN, Maggiani, Ampoli. Diciamo, proviamo a mappare diverse linee di fuga della narrativa working class, quindi il racconto di fiction, il racconto di fabbrica, il racconto della deindustrializzazione, il memoir in prima persona e il film di filiazione, il racconto familiare sulla famiglia working class e anche la forma del graphic novel, ma anche per esempio con Sergio Quadrupani la possibilità di fare delle brigazioni per esempio con il noir, con altri territori riguardo più la letteratura di genere, e ci sarà anche uno spazio per la critica letteraria. Abbiamo cercato di invitare autori e autrici, critici militanti, quindi della tradizione marxista impegnata degli anni 70-80, per capire appunto cosa rimane di quel percorso. La critica letteraria è in crisi, però insomma cosa è rimasto di quel percorso e se la letteratura working class può essere in qualche maniera di stimolo per il loro lavoro in qualche modo. Queste sono alcune delle linee di tendenza che ho inserito nel programma. Come sarà organizzata dal punto di vista logistico per l'accoglienza di chi arriverà? Ci sono volontari che coordinano altri volontari, attivisti, so che c'è un gruppo Telegram, ci sono delle persone che si stanno organizzando per ospitare in casa propria, ci sono delle strutture, alcune di movimento, alcune della rete dei centri sociali, alcune appunto relative a strutture nel mondo del volontariato che hanno la disponibilità per ospitare alcune delle persone che vengono come volontari, non come pubblico, perché è un evento che ha accolto lo scorso 5.000 persone, non è che possiamo dare ospitalità a tutte queste persone, quindi ospitiamo i volontari, quelli che vengono a dare una mano. Diamo i riferimenti web per tutti i dettagli? I canali social di 2 o 3 realtà diverse, sono quelle 4 che animano e costruiscono il festival, vengono condivise tutte le informazioni. Il profilo o del collettivo di fabbrica ex GKN o di Insorgiamo, che è la SOMSA, la società operaia di mutuo soccorso, che è stata costruita dagli operai assieme a alcuni attivisti solidali, oppure cercare l'Arci regionale toscano, che è l'altro pilastro appunto con cui si regge il festival, o infine la casa editrice Allegre, che è appunto il quarto puntello di questo progetto culturale. Ecco. Terza edizione del Festival di Letteratura Working Class dal titolo Noi Saremo Tutto al presidio ex GKN di Campi Bisenzio dal 4 al 6 aprile 2025. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Alberto Prunetti. Ci vediamo lì. Grazie mille, perfetto. Con Maurizio Gibbo Gibertini per presentare il suo libro Non mi sono fatto niente, guerriglie, esodi, droghe, carceri, a Roma, a Casetta Rossa S.P.A. sabato 5 aprile 2025. Ben trovato. Ciao, salve a tutti. Come lo presenteresti questo lavoro? Come la storia di una persona, che però, come ho scritto poi come prologo, è la storia di una persona che le ha fatte tutte, e avendo le fatte tutte ha qualcosa da raccontare, tant'è che il libro è anche piuttosto voluminoso rispetto a pubblicazioni simili. Sì, perché in qualche modo ho attraversato tutti quegli anni e li ho attraversati all'interno comunque di un percorso collettivo, in cui ovviamente ho il mio punto di vista e racconto le mie esperienze, ma in qualche modo inevitabilmente tento di dare uno spaccato di quegli anni e di quella generazione. Usiamo questo termine un po' troppo generico, però insomma di quella generazione comunque che ha cambiato quella società in quegli anni sicuramente. Com'è partita l'esigenza di scriverlo? Noi ci siamo già sentiti perché io faccio documentari, insomma mi occupo di immagini in movimento. E era un po' di tempo che ci pensavo e soprattutto che mi dicevano che una storia come la mia poteva essere un ottimo film, o forse più di un ottimo film, tant'è che adesso che è stato pubblicato questo libro si sta pensando di scriverne un soggetto. E quindi insomma sì, avrei voluto fare questa cosa, mi sarebbe molto piaciuto, ho avuto l'occasione che il curatore della collana 70 Milieu, con cui ci conosciamo da molti anni, ma che chiesto di scrivere una mia autobiografia e io ho preso la palla al balzo, devo dire che l'ho fatto con molto entusiasmo, con un'intenzione fondamentale: raccontare assolutamente la verità. Ci possono essere delle cose strane, credo di aver già individuato che i due parco nell'Ambro di cui parlo sono sbagliati le date, uno è 75-76, io invece gli sposto di un anno, ambedue, però insomma, a parte queste cose qua, a parte che forse alcuni ricordi sono romanzati, nel senso che come me li ricordo io e come li ho vissuti non è... Però ho tentato di dire e di raccontare esattamente quello che ho vissuto, proprio perché credo che questa verità, questa fotografia di una vita in quella temperie è la cosa che dovremmo fare tutti. È la cosa che dovremmo fare tutti per restituire un altro sguardo su quegli anni che finora si è cristallizzato in azioni criminali, processi e carcerazioni, insomma, che secondo me è allucinante perché invece sono stati anni di grandissima ricchezza e di grandissime contraddizioni, certo. E anche di grande miseria, se per quello, però ecco. Il titolo è molto bello e suggestivo. Certo, c'era da dare un titolo e in fondo ho 71 anni, sono arrivato fin qui, ho una vita che continua, faccio cose per cui alla fine male me ne sono fatto parecchio, però non così tanto da farmi davvero male, e quindi questo è il senso del titolo fondamentalmente. A distanza di tanti anni è un racconto soprattutto emozionale, sì, di sentimenti che sono stati rielaborati nel tempo o che uno ha vissuto e lasciati lì cristallizzati. Ecco, com'è questo rapporto con i sentimenti, anche fare un bilancio della propria esistenza a così tanti anni di distanza? Avrei potuto scrivere le stesse identiche cose mentre le facevo, ok? Nel senso che il tipo di approccio culturale, credo che poi dal libro si evinca, insomma, è sempre stato questo, è stato molto più sentimentale, molto, tra virgolette, romantico che politico. Certo, la politica era fondamentale, uno si impegnava, pensava come organizzare quello che voleva fare, pensava degli obiettivi e come raggiungere questi obiettivi. Detto questo, però, il motore vero di tutta questa vicenda era la comunità, era il collettivo, fare queste cose per stare insieme agli altri e per starci nel modo più libero possibile. È stata una ricerca di libertà quasi disperata, non so come dire, però questo è, per cui non c'è stata rielaborazione. Che ne so se una cosa che ho raccontato è proprio quella, che ne so se è successa in quel momento piuttosto che un anno dopo o un anno prima. Quello, però ha lasciato quel segno. Sì, ha lasciato quel segno, quello è. Che bilancio ne fai collettivamente? Di una storia importantissima, credo di scriverlo anche nel libro, credo che a un certo punto le intuizioni sono state quasi futuriste, cioè abbiamo capito che cosa stava succedendo davanti a noi e quali trasformazioni. Teniamo presente che è una generazione che è stata a cavallo tra due mondi, dalla fabbrica alla fine della fabbrica, dal lavoro automatizzato al lavoro schiavo, e su questo probabilmente non avevamo una buona cassetta degli attrezzi, e quindi credo che abbiamo dovuto comprimere quello che stava succedendo e le intuizioni che abbiamo avuto rispetto agli strumenti tradizionali che c'erano, consi eccetera, e questa cosa qua ci ha fatto molto male. Però detto questo, credo che sia stata una cosa meravigliosa e non a caso ci ritroviamo adesso 50 anni dopo che ancora i vincitori, perché noi siamo gli sconfitti e questa cosa, cioè, danne atto, i vincitori stanno ancora tentando di smantellare non tanto le ideologie, ma invece stanno tentando di smantellare le trasformazioni del costume che noi eravamo riusciti ad indurre. Un compagno di Milano, parlando mentre stavamo in carcere, quindi già negli anni 80 avanzati, mentre stavamo in carcere, ha detto: in fondo noi abbiamo fatto il socialismo reale, e usando come emblema di questa cosa lo statuto dei lavoratori, e abbiamo fatto la rivoluzione con la chiusura dell'istituzione totale, quindi la chiusura dei manicomi. Ed è vero, questa è una cosa assolutamente vera, quindi diciamo che l'elemento grosso che ancora in qualche modo riesce a persistere è esattamente questa cosa qua, cioè abbiamo trasformato il mondo. In quegli anni noi abbiamo trasformato questo paese e comunque più in generale abbiamo trasformato il pianeta, e questo rimane anche se ce lo vogliono ricacciare in gola ancora adesso. Il libro Non mi sono fatto niente, guerriglie, esodi, droghe e carceri. Una presentazione a Roma, al Casetta Rossa SPA, sabato 5 aprile 2025. Un saluto e un ringraziamento a Maurizio Gibbo Gibertini. Grazie a te e a tutti voi. Con Bianca Fusco, autrice del libro Lo spazio urbano come terreno di conflitto, gentrificazione, politiche della sicurezza e ideologia del decoro a Bologna. Ben trovata! Ciao, ciao, grazie per lo spazio. Questo libro è stato pubblicato da poco con Red Star Press, è la mia tesi di laurea magistrale, scritta 2 anni fa e pubblicata adesso. L'idea di questo libro nasce nel periodo pandemico, durante il Covid, anno in cui mi sono trasferita a Bologna, nel settembre del 2020. Questo perché il Covid ha profondamente modificato il senso di attraversare, di abitare lo spazio pubblico e ha modificato il modo appunto in cui viviamo e attraversiamo le città. Infatti ci ricordiamo tutti in quel periodo le piazze transennate, le strade militarizzate, i controlli a tappeto e le camionette dell'esercito per le vie della città. Questo perché lo spazio pubblico in quel periodo, a causa dell'emergenza sanitaria, era diventato sempre più il luogo della minaccia e del pericolo da controllare tramite la forza pubblica. Quello che mi aveva colpito in particolare di Bologna è stato da una parte la presenza corporea e fissa della polizia nella zona universitaria, in particolare nelle piazze, e d'altra parte l'esistenza di una certa componente della popolazione della zona universitaria, in questo caso la popolazione studentesca, che comunque in piazza aveva voglia di starci e che quindi ha deciso di agire delle pratiche di autogestione e di riappropriazione dello spazio pubblico. E da qui quindi nasce l'idea di parlare della città e dei suoi spazi pubblici come terreno di conflitto, un luogo dove quotidianamente vengono agite da una parte pratiche di esclusione ma anche di riappropriazione. Parlo di esclusione perché le città, non soltanto Bologna, però ecco, un po' tutte le città d'Italia nel corso degli ultimi decenni si sono trasformate in senso sempre più esclusivo ed escludente. Quindi ci ritroviamo oggi in città, in spazi pubblici dove soltanto certi gruppi sociali, certe categorie sono legittimate a essere presenti nello spazio pubblico e altre ne vengono escluse. Sicuramente tra le trasformazioni urbane che più hanno colpito Bologna negli ultimi anni possiamo parlare della selvaggia gentrificazione, ma anche della turistificazione, ossia quel processo di cambiamento della morfologia delle città e di cambio della natura dei quartieri tramite per esempio la riconversione degli affitti residenziali in affitti brevi per turisti. In questo processo chiaramente ha giocato un ruolo fondamentale Airbnb, che ha determinato la carenza di alloggi per gli studenti e un aumento esponenziale del costo degli affitti, ma anche la costruzione di studentati di lusso dove una camera arriva a costare 800 euro al mese e dove chiaramente non tutti gli studenti possono andarci, determinando così una negazione del diritto allo studio. E queste ecco sono soltanto alcune delle trasformazioni che hanno attraversato il tessuto urbano negli ultimi anni, quindi appare chiaro che se la città viene costruita nell'ottica della città vetrina, quindi deve essere una città pulita, decorosa, deve attrarre il turista e deve continuare a far girare l'economia, a generare investimenti economici, tutto ciò che viene ritenuto colpevole di abbassare le prospettive di rendita di un territorio, quindi tutto ciò che in qualche modo confligge con il paradigma della città vetrina e con l'ideologia del decoro, deve essere espulso e allontanato il più possibile ai margini della città. In questo processo quindi di allontanamento e di controllo proprio dello spazio urbano giocano un ruolo fondamentale, da una parte il controllo amministrativo, quindi tutti quegli strumenti normativi che abbiamo visto essere essere utilizzato indipendentemente dal colore politico dei governi e delle amministrazioni, quindi il DASP urbano introdotto da Minniti nel 2017, le ordinanze amministrative contro il degrado, fino ad arrivare alle più recenti zone rosse che di fatto concedono ampio margine di discrezionalità alle forze dell'ordine nel decidere quali sono i soggetti pericolosi che devono essere allontanati da determinate porzioni di territorio. E il controllo quindi chiaramente non è soltanto amministrativo, il controllo è anche fisico, perché appunto abbiamo le forze di polizia in quanto istituzione deputata al controllo del territorio e al far rispettare quelle che sono appunto tutte queste normative che vogliono disciplinare le condotte e gli usi che si fanno dello spazio pubblico. E da qui arriviamo quindi all'ultima parte del libro, che è un po' la ricerca etnografica che ho condotto nella zona universitaria di Bologna, cioè appunto, come dicevo prima, i conflitti per l'utilizzo dello spazio pubblico. Quello che ho voluto approfondire, che ho voluto indagare un po', è il conflitto tra gli studenti universitari e le forze dell'ordine nella zona universitaria di Bologna. Questo perché la zona universitaria di Bologna ha alle spalle una lunga storia di conflitti per l'utilizzo dello spazio pubblico, dovuti anche a occupazioni, autogestioni, iniziative in piazza, e dovuto alla rivendicazione appunto di un certo utilizzo dello spazio pubblico non normato e non disciplinato. Questi conflitti, ecco, che si sono spesso tradotti anche in episodi di scontro fisico e di conflitto violento con le forze dell'ordine, come per esempio quando nel 2017 la polizia fece irruzione nella biblioteca del 36 di via Zamboni, manganellando tutto quello che si trovava davanti. Quindi ecco, questo è un po' il riassunto generale del libro, che tocca tanti argomenti, che ha un focus in particolare su Bologna e sulla zona universitaria, cercando un po' di mettere in luce quali sono questi conflitti per lo spazio pubblico e di mettere in luce anche però quali sono le pratiche di rivendicazione di un altro utilizzo dello spazio pubblico e anche di autogestione delle piazze, dell'università. Il libro Lo spazio urbano come terreno di conflitto, gentrificazione, politiche della sicurezza e ideologia del decoro a Bologna. Un saluto e un ringraziamento all'autrice Bianca Fusco. Alla prossima! Ciao, grazie a tutti, ciao! Ed eccoci giunti a questa nuova settimana teatrale in questa città di Roma. Partiamo dalla rassegna Ingresso Gratuito, che ricomincia, e si tratta di You, the Young City, i grandi racconti under 35. La rassegna di teatro a ingresso gratuito, appunto, del Centrale Preneste, che questa settimana come inizio propone questo doppio appuntamento. Il primo, venerdì 4 aprile alle ore 21, scritto, diretto e interpretato da Alessandro Blasioli, si chiama Questa è casa mia e parla di una storia di terremoto, i 23 secondi che cambiano per sempre la vita di una famiglia, la famiglia Solfanelli, e l'amicizia tra Paolo e Marco, travolti dalla natura e dall'iniquità dell'uomo. Dopo il terremoto dell'Aquila, di questo si tratta, insomma, questi coniugi Rocco e Piera sono costretti ad un peregrinare infinito insieme al figlio Paolo fra hotel della costa, feste di paese, tendopoli, rivolte civili a Newtown, insomma, tutta un'altalena di emozioni e contraddizioni che accompagna questo viaggio che fin dal 2009 porta le ferite del sisma ai giorni nostri. Quindi venerdì 4 aprile per questo lavoro di Alessandro Blasioli, mentre invece sabato 5 aprile Anonima Sequestri, tutto attaccato, questo lavoro scritto e diretto da Leonardo Tomasi di Sardegna Teatro, che insomma riporta a una vicenda abbastanza eloquente dal titolo, considerato anche il fatto che oltre agli attori coinvolti la scheda dice che sono tre attori più un ostaggio, e chissà l'ostaggio dove verrà poi recuperato. Si tratta di, diciamo, una vicenda che affonda un po' nella vecchia storia della più brutale Sardegna, ma che poi invece in questo senso lavora invece sulla questione dell'identità, su questa organizzazione di finti sequestri di persona per in qualche modo recuperare, no, una relazione con la propria terra da parte di questi due trentenni sardi che provano a sbarcare il lunario in una società, insomma, che un po' illanguidisce il senso culturale identitario. Quindi, insomma, ecco, un po' un lavoro di riscatto identitario, insomma, un rapimento diverso, questo di Anonima Sequestri, divertente il riferimento, e quindi al Centrale Preneste per questi due spettacoli, 4 e 5 di aprile. Al Teatro Argostudio, invece, dal 4 al 6 aprile, torna Elena Arvigo con questo Appunti per il futuro, il nuovo spettacolo tratto dalle opere di Svetlana Alexievich, Anna Politkovskaja, Marguerite Duras e Simone Weil, le grandi autrici, i loro testi che rivivono, insomma, nella cucitura che Elena Arvigo ha immaginato attraverso le loro parole, in qualche modo partendo dall'universo femminile per indagare il mondo, le storie del mondo, le storie dei vincitori e dei vinti, dei torti e delle ragioni, insomma, indagando i sentimenti attraverso anche ragionamenti sulla guerra che oggi è così urgente. Quindi 4-6 aprile per Teatro Argostudio, Elena Arvigo. Procediamo ancora, perché all'Ambra Iominelli dal 2 al 13 aprile arriva un classico del divertimento, un po', insomma, possiamo dirlo così, della commedia brillante, feuilleton, L'anatra all'arancia, dal 2 al 13 aprile con in scena Emilio Solfrizzi e Carlotta Anatoli, diretti da Lorenzo Greg Gregori, appunto Ambra Iominelli. Da questa settimana in poi. Fortezza Est per questo lavoro di Smeralda Capizzi, con Smeralda Capizzi, peraltro, Santa Smeralda. 4 e 5 di aprile è un lavoro intimo, autobiografico, che esplora i legami familiari con l'ironia, la delicatezza, esplorando anche la memoria, la dimensione del tempo. È un interessante lavoro che porta avanti una ricerca sul femminile e il desiderio di indagare il legame con le proprie figure femminili d'origine. Questo è molto interessante. Smeralda Capizzi, appunto, ci porta all'interno di questo lavoro, 4 e 5 di aprile alla Fortezza Est. Poi la commedia romantica al Teatro Riservi dal 3 al 6 aprile per Bunker sulle nuvole, scritto e diretto da Andrea De Rosa, che sarà anche in scena insieme ad altri attori. Si tratta di una storia ambientata all'ultimo piano di un grattacielo dove vive un artista in pensione di nome Bunker. È un personaggio un po' particolare, insomma, che scrive poesie e la lancia fuori dalla finestra attraverso degli aeroplanini. E un ragazzo va a fargli visita perché ne ha trovato uno e fa amicizia con lui. Quindi nel legame intergenerazionale Andrea De Rosa porta questo Bunker sulle nuvole al Teatro De Servi. Poi al Teatro Lo Spazio, 5-6 aprile, per questo Sembra Amleto, con la regia di Ivano Picciallo, scritto e interpretato da Francesco Zaccaro. Sembra Amleto, effettivamente Sembra Amleto è un po' un testo che riguarda l'Amleto, forse più dell'Amleto stesso, questa filosofia spicciola in qualche modo, ma viene da un verso shakespeariano, appunto nell'atto primo, scena seconda. Tutto questo sembra, perché questo è recitabile, è la veste o la scena del dolore. Quello che è in me va oltre lo spettacolo. E andiamo un po' a vedere sopra questa sedia Francesco Zaccaro cosa ci porterà dell'Amleto, un filo immaginario sospeso tra realtà e finzione, tra vita e morte, tra attore e personaggio. 5-6 aprile, Teatro Lo Spazio. Andiamo anche al Teatro Palladium, dove questa settimana, il 2 di aprile, per la regia di Alessia Oteri e la rassegna di Teatro e Cultura Ispanica, andremo a vedere Il Circolo di Nona Fernandez. Si tratta di un lavoro, appunto, di Nona Fernandez, ci sono vari attori sul palco. È una storia di cinque membri di un gruppo letterario che si riuniscono ogni settimana in un'esclusiva residenza di Locurro per scrivere le storie e racconti che desiderano pubblicare sotto la guida di Marita, questa famosa scrittrice di racconti. Ma nonostante l'entusiasmo, la comparsa di un nuovo elemento, Maurizio, interrompe le riunioni. E perché e come lo andremo a scoprire? A ingresso libero, attenzione, ingresso libero al Teatro Palladium. Quindi questo per questa settimana di Herencias, appunto la rassegna di Teatro Ispanico. Andiamo anche poi a vedere. Qui al Teatro Lo Spazio, 3-4 aprile, un altro lavoro scritto e diretto da Francesco Zarzana con Carmen Di Marzo, e si chiama Charlotte, la giovane, pulsante, accorata Charlotte Corday, nella sua casa di Cannes, appassionata di filosofia e studiosa delle nuove idee illuminate, improvvisamente decide che non c'è più tempo, Jean-Paul Marat deve essere ucciso, perché l'amico del popolo si è rivelato il suo nemico. 3 e 4 aprile per Charlotte al Teatro Lo Spazio, quindi un lavoro storico che affonda negli anni della Rivoluzione Francese. Poi al Teatro di Villa Lazzaroni andiamo a vedere questo L'ebbrezza della volata finale di Valerio Molinaro, la regia di Gianni Aureli, c'è il detective Malone che tra debiti e casi strampalati viene ingaggiato per trovare Charles Bukowski, quel Bukowski lì, insomma, l'autore di grandi poesie molto citate. Dal 4 al 6 aprile, Teatro di Villa Lazzaroni, per questo lavoro che si chiama L'ebbrezza della volata finale. Ancora andiamo a vedere un lavoro che consiglio assolutamente, sempre a Teatro Palladium, 4 aprile, nell'ambito di non so cosa in realtà, ma una prima nazionale molto importante, perché la compagnia Archivio Z di Bologna viene a Roma per questa data secca delle Baccanti di Euripide, il 4 aprile, ore 21, appunto al Teatro Palladium. Le invito a vedere, perché insomma i lavori di Archivio Z sono particolarmente ricchi di grande impatto politico, anche insomma la compagnia fondata da Enrica San Giovanni e Gianluca Guidotti già nel 99 è una compagnia che abbiamo visto all'opera con tantissimi lavori anche itineranti, insomma sono davvero una compagnia di teatro molto molto particolare, speciale direi, e questa versione delle Baccanti sarà appunto in scena il 4 di aprile al Teatro Palladium. Ancora qualcosa da dire? Certo, assolutamente, perché al Teatro India andiamo dal 1 al 6 aprile, quindi da stasera, per andare a vedere il Ferdinando di Annibale Ruccello, con la regia di Arturo Cirillo, anche in scena insieme a Sabrina Scucci-Marra, altri attori. Siamo nell'agosto del 1870, la caduta del Regno delle Due Sicilie, quando la baronessa borbonica Donna Clotilde nella sua villa vesuviana si ammala di disprezzo per il nuovo re Sabaudo e per l'Italia piccolo borghese che sta appunto arrivando. Quindi siamo al confine con l'Unità d'Italia, che poi avrebbe dato vita al Novecento, via, insomma il Novecento comincia un po' prima in Italia con la vera e propria Unità d'Italia e la caduta di tutto il mondo precedente. Se ne è occupato Annibale Ruccello con Ferdinando e Arturo Cirillo lo porta in scena dal 1 al 6 aprile al Teatro India. Al Teatro Torlonia, sempre per il Teatro di Roma, dal 4 al 6 aprile, una versione molto particolare firmata da Michelangelo Campanale di Cappuccetto Rosso. È un lavoro per nuove generazioni, diciamolo così, anche se è vero che è previsto dai 6 anni, però il lavoro è molto particolare ed entra in relazione con la danza, quindi possiamo vedere questa storia che conosciamo così bene, quella della preda, Cappuccetto Rosso, preda preferita del lupo all'interno del bosco, che però vive appunto in una dimensione particolare, il bosco si anima di danze, di presenze particolari. Quindi 4-6 aprile, attenzione agli orari, perché il 4 vabbè al mattino per le scuole, ma 5-6 sarà le ore 16:30 del pomeriggio. Alla Cometa Off, 5-6 aprile, per questo format che presenta la realtà musicale emergente nella finzione teatrale di un bar. Si chiama Bar Muda ed è una regia di Angelo Curci e Francesca Florio, con vari personaggi e anche molti attori e musicisti guest che magari per il momento si presentano in pubblico. Quindi interessante questo lavoro, Bar Muda alla Cometa Off. Andiamo poi ancora a vedere il Teatro Argentina, dove dal 3 al 17 aprile torna Ho paura Torero, la regia di Claudio Longhi, con in scena Lino Guanciale, in questo caso anche dramaturg dello spettacolo, e vari attori, insomma, cresciuti insieme a Claudio Longhi, prima all'ERT e poi al Piccolo Teatro di Milano, diretto dal regista Longhi. Dal 3 al 17 aprile questo testo è di Pedro Lemebel, Ho paura Torero, un testo di questo scrittore cileno, difensore dei diritti di ogni essere umano, che è scomparso nel 2015 ed è ricordato per essere uno dei più convinti critici della dittatura di Pinochet. Questo appunto sarà in scena al Teatro Argentina, ma noi non abbiamo concluso perché al Teatro Biblioteca Quarticciolo questa settimana ben due appuntamenti. Il primo è il 4 aprile nell'ambito di Orbita, del festival di danza della compagnia Spellbound. Tre coreografi, coreografe, Giovan Francesco Giannini, Fabio Novembrini, Roberta Racis, portano questo progetto dal titolo Vanitas, una riflessione sulla Vanitas come genere pittorico, viene declinata nel contemporaneo l'iconografia della vanità in relazione al macro tema della crisi del nostro tempo. Siamo in un Eden immaginario, le figure archetipe si perdono in se stesse e scandiscono l'inesorabilità di un tempo funesto. Questo il 4 aprile al Teatro Biblioteca Quarticciolo, ma l'appuntamento al Teatro Quarticciolo della settimana sarà anche nel weekend, perché 5 aprile e 6 aprile c'è un doppio appuntamento con la compagnia Meno 20, la compagnia di Gianni Farina e Consuelo Battiston, nata nel 2005, non a Faenza, ma insomma si trasferisce di lì a poco a Faenza, presenta uno degli ultimi spettacoli, piuttosto noto in realtà, già girato in varie parti d'Italia, Entertainment, una commedia in cui tutto è possibile. Si può amare qualcuno che non c'è? Reiterando questa domanda, il testo di Vripayev ci accompagna ai confini della rappresentazione. Entertainment indica un meridiano non segnato sulla carta della realtà, un ambiente in cui attori, spettatori e personaggi innescano un cortocircuito che confonde i ruoli. E senza di te io non esisto. Il varco per entrare nel gioco delle parti viene aperto dall'amore, forza generatrice che unisce i giocatori e confonde gli scenari. Quindi attorno all'amore, per parlare anche qui di identità, siamo in scena con un uomo e una donna che si interrogano sulla natura dell'intrattenimento, e sono Tamara Balducci e Francesco Pennacchi alla regia appunto di Gianni Farina. Ivan Vripayev è l'autore del testo. Entertainment sabato 5 aprile alle ore 21. Il giorno successivo, per questo appuntamento invece, alle ore 17 del 6 aprile, con La mia vita è un libro aperto. Letture dai racconti di Lucia Berlin, l'autrice nata e cresciuta in Alaska, che ha attraversato vari stati americani, e che a 20 anni si trova ai confini con il Messico, già vedova, avrà 3 matrimoni, 4 figli, tantissimi lavori, incontri, tante identità diverse. Ecco, identità è un po' la parola magica di questo nostro collegamento. E Lucia Berlin ci offre un affresco dell'America che attraversa mezzo secolo e forse anche oltre. La mia vita è un libro aperto, queste letture dai racconti di Lucia Berlin, il 6 aprile alle ore 17 con la compagnia Meno 20. E con questo abbiamo concluso. Ciao a tutte e tutti. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa. Il martedì alle ore 14. Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.